adesso. Ai, che dolore, cari. Ma in Norama, Ravaglia, per carità di Dio. No, no, ma c'è tutto l'ordine, no, basta, basta. Mi è venuto tiro uno schifo, c'ero tutto incasinato, guarda che non veniva bene a dirlo. Posso immaginare quando si fanno determinati lavori, viti, vittine, in effetti, ma no, conviene anche un po' staccare, se no guai, se ne si può richiamare prima. Ehi, cazzo, io sono un mafiano, io tanto adesso mica non mi richiamo tutta la sera a fare che cosa, se vieni più uccidenti, ma te, se vieni più uccidenti, però mi sono troppo adesso, adesso basta, che cazzo. No, ma un libro c'è un paletto così, di cui si verificherà, insomma, non mangio più danno. Basta. Fatto, fatto. Cazzo, ma in FM è poco, anzi, cazzo, sta nascendo una bomba, eh? Con questa in FM, questo 140, questo 140 in FM, caro mio, scherreggia forte, e sono fatti buone queste, questa ce l'ho una vita, non l'ho mai toccata, mai tagliata, capito? È proprio una canonata lì, tanto una canonata, guarda, capito? Beh, tu sono radio, già qualche radio qua, e te ne vediamo, è già qualche tazzo uscito già. Io tra, sono radio micidiale, quelle sono, se non li tocchi, durano la vita. Il discorso è accendere spesso e volentieri, perché sono delle radio che hanno bisogno di caloria, di accendimento, perché se no, se ne siamo tutte tempo spente, poi vanno a farsi benedire, purtroppo. Però sono delle ultime radio che aspettino, vedo bene. Sono delle ultime radio, sono ultime veramente, ma questa ce l'ho comprata nuova e mi si è praticamente andato in tilt la commutazione dei filtri, quindi non commutava da una parte all'altra, capito? E la portiamo a Fabrizio, mi ha messo la scheda nuova dei filtri, ma è una schiccia. Eh sì, beh, si sente. Ultime radio, quella Kimwood, non ce n'è per nessuno, sono delle ultime radio veramente, ma ultime veramente. Oh, io non mi sono mai lamentato, perché veramente va bene. Va benissimo, perché devi stare molto attento, devi usare in una certa maniera, perché sennò poi è un casino, capito? Eh sì, quello è vero, quello è vero, adesso si conferma che bisogna usarle in una certa maniera, tenerle sempre pulite e efficienti, sennò c'è un problema, e come diceva quello, un tocche. Quanti ti vanno a toccare a fare un mobilmente? E già sono delle date particolari che non fa, capito? Non fa, quindi devi fare le cose fatte bene, se no pure il casino, non va bene. Non va bene, ma sono radio talmente belle e delicate soprattutto. Soprattutto sono delicate, è vero. Ma già mi piacerebbe avere una di quelle veramente bella, perché è bella esteticamente, bella tutta. Peccato quella là, peccato, guarda, c'è quella, c'è la Giampaolo, nuova 430, una canonata, ma quella non mi fare pensare, va veramente, non mi fare pensare veramente. Non mi fa pensare, manco a pensare il cambio, gente, proprio l'Igoper, chi mi volesse via, che pezzo di frontalino, ma completamente tutta disintegrata, dentro, bruciata completamente, cazzo, ma come si fa adesso? Come si fa, per carità di Dio? Vabbè, pacifica. chissà, però io via. Purtroppo. E chi dove hai passato lì da lì, è andato via. Ha bruciato l'integratore. Ho entrato, ragazzo, me lo bruciava legato l'attaccato, mi sa che c'era, no? Come ha fatto? Come ha fatto? Mi sa che è entrata lì al lato, che ha bruciato tutto. La carità. Mi ha avuto una vita serrata, sempre, muro a pulso, sempre di russo. Me, lui era, per carità di Dio, la lasciamo perdere. Ma sai qual è il problema? Che quando uno è incompetente, non è cazzo che uno deve avere vergogna, perché nessuno l'ha imparato, a me mi hanno insegnato a fare determinate cose e me le faccio. Le cose che non so fare, io non ho vergogna a chiedere chi ne sa più di me. Come Fabrizio, che è molto più preparato sicuramente in materia, perché ha studiato proprio quello, sa fare quello e si impegna moltissimo, ha molta pazienza. Io pazienza non faccio. Sono tutta la sera a vedere un amplificatore da vino giù nel labbro. Uno, perché non ci vedo, mi fanno male gli occhi, mi fanno, devo usare occhiali grossi, devo usare la lente, e quindi fai quelle poche cose che riesci a fare, quelle tarature, quelle stronfatte. Ma se una cosa non la sai fare, non è vergogna a chiedere a chi ne sa più di te, ma perché ti devi mettere a pasticciare e a rovinare una radio che funziona bene? Cazzo, anche quella lì stasera, quel Galaxy, adesso l'ho messo a parte, intanto non li devo dire. Poi ci ho pensato, ho detto, ma se si azzera da sola e che quindi va in tilt, c'è qualcosa della batteria, qualcosa, anche perché non prendeva le memorie, adesso le ha prese, capito? E quindi l'ho aperto, ho visto, se c'era la batteria che potevo togliere, la toglievo, l'ho tolta, gliel'ho cambiata, la radio è a posto, funziona perfettamente, ma vai proprio a intuito perché sai che è quello, ma se non è quello, la senta tutto, non tocca se. Sì. È inutile il fattore che uno si dica che sono 30 anni, 40 anni, 50 anni, per questo. Ah, sì, non è serio, cosa, lascia stare tutto, non tocca se. Tanto è a far danno come ha fatto. Cadavrecca. Buonasera a tutti, doppio rumo da questa parte. E beh Claudio, risolto hai? Risolto? Risolto. Quale Gianni? Che fatto di quell'apparecchio che appariva tutti quei numeri, quella roba lì? L'hai risolto? Sì, si è resettato già perché c'è una batteria a litio come l'HF, no? Come il display dell'HF, capito? Sto trasmettendo il litio. E beh, poi ti dico dove si fece, per carità. E l'ho resettata, gli ho messo la batteria, tutto a posto. E ho detto, siccome c'erano due lampadine, una a un lato e una all'altro, accendeva solo un lato. C'era un falso contatto nello spinotto del jack, in quello spezzone che ha fatto Pietro, no? Ha giocato un colpo e si è attesa la lampadina, a posto. Tutto qui, quindi il display a posto, la radio a posto, tutto qui. Meglio così, va. Era una fesseria, era la batteria quella che manca nelle memorie. Sì, già, però negli HF, no, tipo 140, mantiene le memorie e praticamente fa un'altra cosa che adesso non mi ricordo sinceramente, se ho voluto reagire con un gabbo a fumo, ci sono andato anche lineare, ho tolto la resistenza, la mano la compro, ho cambiato lampadine, belline, fa anche più luce. E questa è una batteria lì che praticamente comanda tutta la radio, tutto il sistema del frequenzimetro, di tutte le posizioni, alto, basso, potente, tutto. E sembra anche, comandi anche l'affare del Mickey Gay, perché se c'è quella batteria scarica, mi abbiamo provato con un forchetto, non usciva neanche il radio. Ah, probabilmente serve pure per il menu, è normale, tutto si comanda dal menu, quindi quella per far funzionare il menu ci vuole la batteria. Poi ti do un'altra bella notizia che spero ti faccia piacere. Ok, in settimana senti cattina perché gli sto riparando la radio. Ah beh, mi fa piacere, sì, certo che mi fa piacere. Io ho una persona in gamba. E la sta riparando come? Le trova che sì, sì. Le già riparazione me la mandano venerdì. Venerdì dovrebbe essere qua, venerdì mattina, capito? Venerdì mattina è qua. E già riparazione. Trovato il lano, trovato il pezzo, trovato tutto. Tutto a posto. E già in riparazione. Vada, fare la cedere da lunedì per Scaramanzi. Ah, penso che se ci siamo sentiti oggi con Carlo, quindi mi ha detto penso di darmela anche prima, insomma se vuole un po', vuole un po'. Comunque preparata, perfetta, ho detto di aumentare un pochino i latte perché erano troppo bassi, e dico in lavorazione e basta, non ce la farò altro con la radio. Cosa ti stavo dicendo? Ma ti non usciva già un bel forte, io mi ricordo che aveva una bella modulazione, proprio bella forte, tipo la tua. E cosa ti stavo dicendo? Ma il pezzo a seconda mano l'hai trovato? No, nuovo, anche in magazzino. Ah? E ci spende quella cifra là? Non spende niente lui, no? Ci pensa tutto io, Claudio. Vabbè, regalino. Non c'è problema. È un amico su, la sta facendo. E quindi l'aveva promesso, l'aveva detto apposta. E va bene così. Ma di quella studia che hanno detto, veritiera è quella di intravenire di esame. Ciao, veritiera è questo, adesso lo vedo. Vabbè, facciamo quello lì, ritorno. Sì. Lei era, faccio un po' su anche, ma adesso, vedere, un po' di roba. Questo mostro sul meteo. No, per fare quello, non ce l'abbiamo. Ok. Tutto dipende da quello che c'è. Dal sorgere della luna praticamente parte questo ciclone, quindi dovrebbe tra venerdì e sabato. Allora, ma che è Antonio? Sì. E lui è sempre a caccia di satelliti, di queste cose qua, io me lo ricordo che a una certa ora ci diceva quando modulava qua, devo andare a seguire i satelliti. Antonio è molto preparato in queste cose, se l'ha detto Antonio ci credo più di quanto lo possa aver detto Canale 5 o la buona Eva Bernacca. Ma che pindaccio lo chiamavamo. Cosa? Se lo chiamavamo Bernacca il pindaccio. Ma era preciso, bravissimo, quando andava al meteo si scherzava. A te la mette qualche? Ciao Falchi. Qui c'era qui New York, vi parla Ruggero Orlando. Avanti il break, un attimino che ci metto questa scatola nel poggiolo. E torno subito avanti il break, dovrebbe essere uscito, avanti il cambio, buonasera. Buonasera a tutti, Barracuda, che vi saluta a tutti e tre. Buonasera, bella Barracuda, dopo tanto, buonasera, ben ascoltato, avanti già. Ciao Antonio, ben sentito, vai avanti. Buonasera Claudio, addio Falchette e addio Doppio Room, buonasera a tutti e tre. Ha raffreddato sì Antonio? No, un po' a mal di gola, proprio niente, tutto sotto controllo, dai. Cappaga. Hai sentito di che cosa stavo parlando? Sì. No, sinceramente la verità non ci ho capito un baffo. Tornato, non so che cosa, no, non ho capito bene la verità. Allora, tra venerdì e sabato ci sarà un tornado nel nord della Sardegna che andrà dai 120 ai 130 km orari. Sì, Dio mio. Allora, il problema sono le tre antenne. Non solo. Speriamo non faccia danno, perché non passi, che passi molto in alto. È tipo un vortice così che si, che dice che dopo, che come, come c'è la luna, come appare la luna, comincia, comincia questo tornado. Ma diciamo è una cosa proprio sicura, proprio tornado nel vero senso della parola. A quanto pare sì, a quanto pare è così. È tromba d'aria, tornado, così è una di queste cose comunque. Non so come chiamarlo, però io ho sentito così. Claudio, che cos'è esattamente? Sì, una tromba d'aria con praticamente, già vedo che tocca, comunque i vortici sicuramente ci sono. 300 km orari, quindi oltre quella velocità lì sono trombe d'aria, quindi sono perturbazioni che arrivano da fuori, e neanche saremo molto attenti. Se vi ricordate c'è già stata, io ero lì a Pasqua 3-4 anni fa, e ha durato poco, però ha fatto un sacco di danno. Tenete conto che è già in programma, perché se voi andate a vedere fuori, c'è già un vento che sta picchiando, inizia da Maestrale, però poi anziché andare a Maestrale gira sicuramente a Grecale, e da lì già inizia, quindi è sicuramente già in arrivo la perturbazione. Lo sai che quel periodo lì stavo lavorando via, non ricordo, vicino via San Cuffia, comunque c'è la via dei bambini, quella via lì, ma è arrivata questa trombata di cosa, di acqua e vento, ma forte, era una cosa spaventosa. Una trombata. Allora, io dico una cosa, io in quel momento lì mi trovavo solo sugli Bidriati ed erano esattamente le 5:15. Mi è crollato un albero davanti, anzi prima ho scartato due cassoletti scendendo, che stavano camminando in mezzo alla strada, sono riuscito a scartarli, mi è andata bene. Poi sono arrivato a Sorso di Bidriazzi, lì per andare verso Paolo Torres, e mi è crollato un albero davanti, proprio uno di quegli alberi secolari di chi si mandi. Ho evitato, però ho preso il ramo mi ha tolto la pattana della macchina, ma ho continuato a proseguire perché ho visto che si stava allagando tutto, perché stava anche piovendo oltre che esserci il vento. Si è allagato tutto e arrivati dopo il bivio dell'incrocio della morte per salire su a Monterrasu, lì mi è arrivata l'acqua sul cofano, non vi dico altro. Adesso un po' Giulia riprendi a Torino. Sì, ma speriamo che non faccia danno. Comunque morale della favola, scusatemi, morale della favola, diciamo che dovrebbe prendere la nostra zona in fin dei conti, giusto? Se non ho capito male, per nord Sardegna, Antonio. Allora c'è poco da fare, dai, la prendiamo come viene. Ah, per dire una stupidaggine così, guarda, oggi sono andato al centro ecologico, sai, no, come tanto è il mio negozio preferito in paese, e ho trovato una radio, cioè presente di quelle radio AM, FM, che si usava all'epoca, dove c'era amplificatore, cassette, cose varie. Questa è solo radio, che ha bisogno delle casse, giustamente, della National Panasonic. E vedere uno spettacolo, è un mostro di radio enorme, pesantissima, l'ho aperta, funziona perfettamente, sente un graffio, dentro l'ho aperto, è una cosa impressionante dai componenti che ha. E la cosa particolare che ho notato di questa radio è che ha i condensatori, cioè tre condensatori cilindrici ma abbastanza grossi, che sono avvolti non dalla plastica ma del cartoncino grosso, ma tipo che è veramente uno spettacolo. Non so se Claudio, che è più esperto, dovrebbe avere un pochettino l'idea. Questi condensatori, sicuramente di corrente, però non sono fatti in plastica avvolti con le sfide, sono fatti in cartoncino grosso, diciamo, i canali vengono mossi dal condensatore variabile. Claro, ci deve essere aspettato un attimo. Sì, sì, ma io li conosco perché li ho anche visti, quelli lì, quelli che stai dicendo tu. Li conosco perché io e lui avevamo un radio a casa di mamma e una volta c'aveva il petto di dietro che era in masonite, che cos'era? Non era un coperchio normale come li fanno adesso, erano in masonite prima. Ecco, vabbè, questa invece, diciamo, la struttura è in legno, ma è perfetta. Abbiamo fatto ogni tanto, vado lì, che trovi un po' di tutto, e l'ho vista lì appoggiata perfettamente, buttata, e poi ho trovato anche un mangiarante Super 8 che non ho preso, perché purtroppo cassetta non ne ho, che collezionista è lì, che gli può interessare, vado, lo posso tranquillamente recuperare, un Super 8, più giustamente ci vengono le cassette, sempre perfettamente integro come pezzo. E ti dico, l'ho dato una pulitina a questa radio, ti dico che è veramente uno spettacolo. Accende perfettamente, funziona, ma guarda, l'ho aperta dentro così, per tutta la mia curiosità, dentro, guarda, uno spettacolo, c'è tanta di quella cosa che è incredibile, pur essendo, diciamo, una semplice radio. E c'è i pulsantoni, non so se ti ricordi, all'epoca quando davano Mazinga Z e quando aveva per dire lanciare missili o i pugni, no, quando volavano, c'erano quei pulsantoni lì strani. Guarda, è composto così questa radio, dico che è veramente bella. Ma fa quelli quadrati che c'hanno davanti? Diciamo che sì, sono una specie di mezza sfera abbastanza lunghi, ma per attivare qualsiasi pulsante devi tirare per forza queste leve abbastanza accentuate. Diciamo, adesso prima sicuramente all'epoca si chiamava National Panasonic, adesso è la TV con la Panasonic, la National non c'è scritto più. Ma dico che è veramente uno spettacolo, è presa, guarda, è una cosa incredibile. E quando l'ho vista, guarda, mi sono brillati gli occhi, guarda, ogni tanto trovi qualche chicca alla collezione che è veramente uno spettacolo. Attimo di bianco e arrivo subito. E poi già, sì, vai, parte tranquillo. E poi dico che quella cosa è veramente già una cazzata a farlo funzionare, ti dico che è una meraviglia. Cosa, Antonio, non ti ho capito. Una cosa là, lì là. Sì, sì, sì. Ah, io l'ho anche usato così, già lo so, lo conosco tutte quelle cose. Dico, guarda, che ma niente di particolare, se ti attento un pochettino, guarda. Ti giuro che è uno spettacolo, veramente c'è una ricezione impressionante. Sento anche Alghero. Te l'ho detto. Una bella storia, veramente. Appaga, io non te ne do roba a buttare. Lo sai quanto è durato acceso senza alimentatore? 24 ore su 24, 3 giorni e mezzo. Va bene. No, va benissimo, guarda, è veramente tranquillo. Poi mi sono fatto dare alcune frequenze di radioamatori e cose varie già, e ci sono tranquillamente. E poi stamattina poi ho fatto la carta di identità, l'ho dovuta aggiornare perché è scaduta 15 anni. L'ho spedita a Cagliari tramite internet, fortunatamente un'amica mi ha fatto questa cortesia perché aveva bisogno di carta d'identità, però a Cagliari mi hanno detto che ho parlato con la responsabile che dice che non c'era bisogno, dice, di fare questa domandina, che si può, così mi ha detto, fare l'ascolto anche senza domanda, l'importante è che non si esca al di fuori delle frequenze radioamatoriali, ma se devi fare, diciamo, quella storia di cartoline per SWL, giustamente ci vuole. Comunque dice, a breve, in questi giorni l'hanno, diciamo, attestato e sono tranquillo senza problemi, ecco. Sì, ma quello lì adesso, infatti è così la legge, solo che se tu vuoi un pezzo di carta che lo attesti, a chi ribala le vola in aria, magari uno dice che così, l'altro dice che colà, io invece quando c'è la carta in mano, carta accanta. Sì, esatto, ma infatti glielo spiegato, lui mi ha fatto, sì, volendolo può fare chiunque, dice, senza fare nessuna domandina, così mi ha detto questa, la signora Secchi, che fa, però se vuoi, dice, fare una cosa più tranquilla, con cartoline che vengono spinte, che sinceramente devo chiedere informazioni perché sinceramente non so come funziona, giustamente ha bisogno, diciamo, di questo attestato. La documentazione andava bene, l'ho scritta via internet, anzi me l'hanno spedita perché sinceramente sono veramente un asinello in queste cose, scannerizzato la carta d'identità e poi spedita direttamente via email a questa signora qua che lavora lì a Cagliari. E cioè a breve mi arrivo l'attestato e sono tranquillo e pacifico, dai. Già. Ma scusate che io vado a mangiare un boccone. E poi sono volante qua. Antonè, se hai parlato con la signora Secchi, sei una botte di ferro, perché persona più competente di lei lì dentro non ce n'è. Non ce n'è, io ho sempre parlato con lei da una vita che lì, la sua responsabile d'ufficio era la dottoressa Giagu, quindi tutti vi rivolgere sia la signora Secchi, che è la responsabile, praticamente la segretaria della funzionaria, che è la dottoressa Giagu, oppure alla dottoressa Giagu, non chiamare altro nessuno perché lì dentro non capiscono un accidenti, capito? Quindi si è andato benissimo, se ti ha detto di fare così sei tranquillo, però il documento fatelo mandare, come ha detto Gianni, le parole volano al vento, la carta rimane attaccata al muro, capito? Ma ci sentiamo dopo, buon proseguo di questi ho, io tra un quarto d'ora sono veramente qua, a dopo, vai Antonio. Ernesto, Marco, buonasera. Ciao Marco, scusami un attimino, ti faccio entrare. Sì, hai beccato sia un nome che l'altro, infatti nel documento in cui mi è arrivato c'era nome e cognome di una persona e dell'altra con l'email. Infatti prima di fare, diciamo, tutti i procedimenti ho chiamato e ho fatto quello che mi avevano detto loro e poi giustamente quello che mi hai detto tu. Ho fatto tutto, ho richiamato, è arrivato l'email e dice che a breve mi manda la documentazione, sono pacifico e tranquillo. E dunque, diciamo, la situazione è bella che ti affetta. Va bene, buon appetito, ci sentiamo dopo. Avanti il break. Ehi, ciao, buonasera, Marco Scorpio. Ciao Claudio, buona cena. Io sono uscito dall'ufficio e anche io mi sto dirigendo verso casa, ho acceso la radio. Saluto anche a Gianni e a chiunque fosse qua sintonizzato sul canale 10. Buonasera a tutti, Marco Scorpio. Io comunque attualmente ti consiglierei, così anche un po' come ti ha detto Claudio, meglio aspettare avere i documenti, perché il fatto che fai ascolto su una frequenza radioamatoriale non è un problema dal punto di vista legale, mentre è un problema legale il detenere apparecchiature se non hai l'autorizzazione. È come cosa ti dico? Non puoi far utilizzare un'apparecchiatura se non hai conseguito l'autorizzazione. Mentre avere in carta quel pezzettino di carta a casa, se suona il campanello sai, ti trovano un ricevitore, un ricetrasmettitore, sei autorizzato a poterlo utilizzare. Se invece non ce l'hai sono seccature. Non capita, però se capita è un problema. A te Antonello per il questione, Marco Scorpio. Ciao Marco, ben sentito, buonasera. Sì, sono pienamente d'accordo, giustamente anche quello che ho detto Claudio e giustamente Gianni. Sì, è la cosa migliore. Ho fatto tutto quello che giustamente mi competeva a termini di legge, ho chiesto consigli, giustamente, ma andate sempre, grazie a Dio, giusti e positivi, ho fatto le cose in regola senza problemi. Sì, a breve c'ho ho quasi l'autorizzazione perché c'è già un primo documento, adesso ne arriva l'altro, il gioco è fatto e sono tranquillo. Sì, pienamente d'accordo, così uno può dormire tranquillo senza problemi. Ciao Marco, ben sentito, saluto anche a Claudio, buona carica a Claudio. sì, è così. Io gli ho detto che la carta canta, le parole volano in aria. È vero, già, anche perché non succede, ripeto, però ogni tanto capita che gli organi di controllo vanno in giro, sono, vedono le antenne, un giorno capita, suona, c'è qualcuno che apre, perché ovviamente si presentano come pubblici ufficiali, entrano, non hai la carta che canta e fanno verbale, c'è poco a fare il lavoro. Poi comunque bisogna giustificarsi e si entra dentro un circuito pieno di seccature. Invece c'ha il foglio del Cagliari, arriva, buongiorno, prego, si accomodi, questo non autorizza a tenere apparecchiature ricetrasmittenti, però perlomeno se vengono uno c'ha l'autorizzazione, se anche c'ha un apparato HF senza microfono collegato, perché ovviamente conviene sempre non tenere i microfoni collegati con le apparecchiature, anzi munire di un tappo al posto del microfono e dire ecco guarda io faccio ascolto con questo, non c'è questa ricetta di un editore, vabbè ma io non lo uso in trasmissione, uso solo la ricezione, come vede non è collegato e vabbè insomma. Almeno sei quasi completamente in regola, Antone. Sì, pienamente d'accordo, ma la verità sto sempre chiedendo, informandomi e prendendo consigli dagli altri, è pienamente d'accordo. Sì, così alla fine uno tranquillo e pacifico, ripeto, e puoi dormire tranquillamente la notte che non devi niente a nessuno. Marco, la notte non dormi tranquillo, poi se invece metti le antenne sul tetto, come capita a chi poi c'ha parco antenne, c'ho già l'ansia per questo cavolo di tempo che sta arrivando, non per niente bello, speriamo sia come l'anno scorso e anni fa, che ci ha fatto un danno indifferente a me e a qualcun altro, e ancora piangiamo le seccature che ci ha arrecato. Va bene, c'è stato qualcuno che ha chiamato, avanti con la buonasera, Marco Scorpio a questo. No, sono Gianni sempre, appunto vi stavo chiedendo se vi saputo che tra sabato e domenica deve venire tipo tornado, un tornado addirittura con vento a 130 km orari. Sì, certo, ho chiamato in QSO quando questa cosa è venuta fuori e ho chiamato a Claudio subito per avvisarlo che c'era questo problema che è venuto fuori già questo primo pomeriggio. Speriamo che non sia una cosa così come è stata annunciata, ma oramai è diventato un problema, questo cambiamento del clima ci sta portando a dover modificare le tiranterie di tutti gli impianti antenne, dimensioni delle staffe, di tutto, guarda, perché sai bene che negli anni passati io per quelle due condizioni meteo bestiali che si sono verificate ho avuto un bel po' di danni e Walter in maniera ancora più grave, lì proprio lì in maniera catastrofica. Speriamo, mi sono arrivato adesso, sono sotto casa, mi sto controllando le torri. Domani non c'ho neanche granché di tempo, ma domani bisognerà provvedere a verificare, a rinforzare il tutto. Speriamo bene. Non bastano tutte le seccature che si hanno già normalmente, adesso ci vuole anche il tornado, ci vogliono, cosa vi dico? A te Gianni, ascolto il passaggio e poi sono arrivato a casa, scendo e vado a cena, ma riprendo più tardi da su. Ora non sono stato pignolo io a mettere i nuovi tiranti nella mantova. Tutti dicono, sei stato pignolo a metterne così tanti, vabbè, è sempre meglio averli. No, già, è meglio fare le cose in maniera esageratamente tutelativa, molto ma molto più che non trovarsi poi a piangere per non aver messo 20 metri di di nylon in più, o un tassello più forte, o una staffa più seria, o un tubo più grosso. Bisogna veramente fare cose in maniera esagerata, ma proprio esagerata. Perché poi ti accorgi che comunque non basta mai. Sempre qualche seccatura c'è. Boh, speriamo che l'abbiano dipinto più nero di quello che invece sarà. Auguro. Comunque la volta che a voi vi sono provate le antenne, già le doppie luci trovavo in macchina, sono sui vidriazzi, mi è sceso un albero davanti, ma di quelli secolari, di quelli grandi, sono riuscito a evitare, però mi ha preso con un ramo la pattana e me l'ha buttata fuori. Poi sono arrivato lì a Monterrasu e l'acqua mi arrivava sino al cofano, un picco alto. Guarda, sono stati 2 anni terribili, e a me mi ha distrutto la 6 elementi, 10, 15 e 20, quel bestione che avevo. Il primo anno mi ha dato una botta per gli elementi dei 20 metri, poi l'anno dopo mi ha danneggiato gli elementi dei 15 e poi alla terza volta la rotta del tutto, e ho dovuto tirarla giù perdendo quella bestia d'antenna che avevo. Proprio lì ho recuperato una buona parte del materiale, ho ricomprato tutti gli altri elementi, ma la fatica, il lavoro, i soldi spesi per installarla, quelli li ho buttati, cosa che prima nei decenni passati non impensabile, una condizione di vento così, mai vista una situazione del genere. E poi l'altra volta lo stesso, anche le monobanda delle VHF, l'antenna dei 1200, insomma costantemente, tanto quell'antenna non è neanche mai più rimontate, lì lo stesso ha fatto un danno, ha buttato giù tutto il sistema con le antenne, 4 antenne accoppiate VHF più antenna dei 1200, mi avranno, mamma mia, boh. Speriamo bene, dopo vado a guardare se ci sono novità sui siti delle condizioni meteorologiche. Vai Antonello, vi lascio il questione, ascolto il vostro passaggio e poi scendo, vado a cena. Per il questione Marco Scorpio. Ia, buon questione. Comunque, buon appetito, ci sentiamo dopo mangiato, se ne hai voglia. Sì, ma io per fortuna... diciamo, il tubo che tira le mie antenne è già abbastanza corto, 4 tiranti ce l'ho, dunque problemi di tubo non c'è, neanche di staffa. Speriamo giustamente che l'antenna resista al vento, anche lì c'è scritto 130 km orari, speriamo che non mi faccia danno, senza avendo la paura di salire su venerdì sera e smontarla e scenderla giù. Cavolo, come si fa, mica si possono fare queste cose così, no? Boh, io... consigliere, infatti, di verificare se i tiranti sono ok, se è tutto a posto e poi pregare. Vabbè, ciao, a più tardi. Incrociamo le dita e d'ora in poi tutti coi dipoli. Vabbè, che quello problemi non ce ne sono. Infatti non a caso i militari o comunque qualsiasi condizione di particolare, le antenne a alto guadagno filari sono quelle che vengono impiegate, perché con i dipoli puoi fare delle antenne collineari che hai bisogno di tanto spazio, ma chi spazio ne ha puoi costruire antenne con grandi prestazioni e a rischio zero e con costo ridicolo. Infatti non è una grossa perdita anche se dovessi perderli, che magari non si rompono, ma anche se dovessi perderli non è questa grossa perdita che ha. Va bene, speriamo, incrociamo le dita e auguriamoci bene. Là. Avanti Antonio. Sì, già. Comunque, buon appetito, ci sentiamo più tardi. Comunque ti volevo dire, ma è una cosa sicura, ciao. È proprio sicuro al 100% che ci dovrebbe essere questo piccolo tornado, chiamiamolo piccolo, vai. K che è sicuro, se tu vai sul meteo c'è già la situazione, venti furti, eccetera, eccetera. è una cosa un po' che la mia paura non è tanto che sia una patria, ma quanto che cada addosso a macchine, che faccia danno alle persone, è quello lì, perché sono antenne pesanti le nostre, non è che siano antenne di cavolo, se cadono giù fanno danno. In quello sì, pienamente d'accordo. Tu sicuramente sì, io no, per me è abbastanza leggera, è semplicissima, sempliciotta come antenna, ma speriamo che tutto vada bene. Chi ha più antenne ha un problema, e alla fine, sperando che abbiano fatto bene il lavoro, già sai di chi sto parlando. E io già li ho visti anche che c'ho attorno. Solo che basta che ne cedano due o tre di quelli e comincia a barcollare l'antenna, perché il tubo, il mio, è di quello telescopico, anche se l'ho infortato con tubo d'acqua all'interno, ma sempre leggero è. Sì, quello sono completamente d'accordo, ma con tutti i tiranti che hai, sicuramente in quel caso lì problemi non ne hai. E l'antenna alla fine è quella che prende un po' lo sforzo della situazione, è l'antenna che dovrebbe esistere, sperando che non si pieghi lì, poi per il tubo vedrai che problemi non ce ne sono. Il discorso è l'antenna, se riesce ad esistere, diciamo, tutta questa forza. La Mantova piega senza problemi, è molto flessibile, per quello no. Diciamo che magari quando l'antenna vecchia c'è già 9 anni come la mia, c'è un po' da temere, perché diciamo che la struttura dell'antenna non è più forte come quando è nuova. Sì, quello che mi mette d'accordo, ma speriamo in bene alla fine, dai. Io guarda, la volta che è successo con l'affare lì, scusa attimo. Io non ho riuscito a lavarmi i denti, arrivo subito. Però bisticciano quei due, per riuscire a scelti qua, perché ha picchiato perché sta facendo casino nella camera e lui è incazzato me. Fra adesso, vieni. Come? Ci si. Gianni? Sì, Antonio. Scusami, sono venuto a sentare che devo lavare i denti, eccomi, questo sono bello fresco e pulito. Io dopo ho mangiato me li lavo sempre lo stesso. Sì, io ho mangiato 5 minuti fa, poi l'ho acceso. Sono più forti di me, guai, guarda, non lo sopporto. Comunque, fatto sta, stavo, scusami un attimo, fancuffia, stavo andando su internet per qualche ricevitore, però ancora non ho trovato niente in HF. VEU, devi cercare. No, VEU no, HF proprio. Sono ricevitore HF, però non sono riuscito a trovare niente. Ah, ne hai un'altra parte? No, adesso c'è un UEV, poi ci vuole l'HF, un'altra cosa, no? Ma se anche ti copri un 140 riceve in HF, da 0 a 30, appunto. Quello, e dove lo trovi buono, tranquillo, che funzioni bene, sia schiaccia abitato, proprio perfetto. Io ho guardato anche quello, ma non sono riuscito a trovarne su internet. Bisogna avere solo fortuna, io l'avevo preso uno che adesso c'ha Claudio in continente a Tecnocomunicazioni, quando facevano le fiere ne hanno ritirato uno e gli ho detto di avvisarmi e mi ha scritto che aveva ritirato il 140, se mi interessava me lo dava 300 euro. Ho preso e ho scritto che saremmo in condizione di mandarlo, e lui mi ha detto aspetta un attimino, prima di mandartelo vi faccio un check-up a tutto l'apparecchio. L'ha controllato, mi ha scritto praticamente che non c'era bisogno di farle nulla, che l'apparecchio era buono, l'ha controllato la frequenza, tutto qua. E poi gli ho chiesto l'MC60, mi ha detto che ce ne aveva uno, però conoscendo a me ha detto che era un po' consumato, non graffiato, che se ti appinti te lo metti a posto tu, Il dottore non mandamelo nuovo, quanto costa? 170 euro, mandamelo nuovo. Me l'ha fatto mandare nuovo ed era un bombo che si apparecchia. Arrivia, poi Claudio mi ha fatto le solite regolazioni, memorizzato tutte le stazioni e cose. Quando sono arrivato a casa era una bomba. Ed eccolo qua, sempre qua presente il 140, eccolo qui. Via, lo senti? Mi sentirei male, ascolta. Se non ti disturba, se ti capita l'occasione, me la puoi fare la cortesia, Clara? Se riesci a trovare, se ti capita, tu che è bene o meno male, già stai sempre trovando di tutto, qualche ricevitore HF, se no proprio male andando, un 140, che poi userò solamente per l'ascolto, li metterò un tappo lì, nell'attacco del microfono, lo uso come ricevitore. Se ti capita l'occasione, se ti fa piacere mi fai sapere, poi vediamo un po' come la situazione. Ma come non ci siamo, allora Marco forse non si è spiegato cosa fa. Non puoi mettere tu tappi a un ricevitore perché non sei radioamatore, tu devi avere un ricevitore che ha già il tappo di fabbrica, capito? Non puoi avere il 140. Quindi se lo devi avere devi comprare tale ditto, ma non puoi chiedere a me di fare una cosa del genere. No, nel senso il tappo l'avrei messo io, non tu. No, non ti dicevo, forse mi sono spiegato male. Ma giustamente mi viene un controllo, il microfono non ce l'hai, no, lo sto usando così, poi se non si può fare, non lo sapevo, ma se ti capita a te che conosci qualcuno di persona affidata che ha solo un ricevitore, HF, se ti viene bene mi fai sapere. Oppure se trovi qualcosa te lo faccio presente, poi mi dici tu se è una cosa diciamo da acquistare oppure no. Allora, altrimenti lo posso spiegare io. Ah, chi ha la licenza SWL può utilizzare solo ricevitori a salti, non di continuo, perché ci sono certe frequenze che non si possono ascoltare. E per essere omologato veramente il ricevitore deve andare a salti, praticamente salta quelle frequenze tipo cosa tipo se carabinieri, polizia, vigili del fuoco, le salta quelli. E praticamente puoi usare solo ed esclusivamente quel tipo di apparecchi, poi a rischio e pericolo di chi lo vuole fare puoi usare anche apparecchi a sintonia continua dove si prende di tutto e di più. Niente, non si possono usare gli apparecchi come ha detto Claudio, diciamo che trasmettono il coso essendo SWL, si possono usare solo apparecchi riceventi, non trasmittenti, per legge. Poi c'è chi lo fa, come tutti, se non si cambia nulla e fa quello che deve fare, lo fa e basta, appunto, però per legge è così. Sì, va bene, sono pienamente d'accordo, senza ombra di dubbio, sempre a termini di legge, ma in HF non ci sono, diciamo, le frequenze radioamatoriali, le frequenze dei carabinieri e così via. Ma nell'altro sì. Nell'altro sì. Hai capito. Comunque si possono ascoltare solo esclusivamente frequenze radioamatoriali, punto. Non c'è da sbagliare, non si possono ascoltare altri tipi di frequenze. Confermi, Claudio? Confermo Gianni. Il problema è quello, Antonio, tu devi comprarti un ricevitore HF 0,30 MHz, ricevitore. Non puoi avere un 140 e dire le metto il tappo, mi vengono, no, vengono e te lo piombano, te lo portano via, capito? Perché quello è un ricetrasmettitore, non è un ricevitore, quindi per gli SWL, come ti ha detto Gianni, sono consentiti solo ricevitori, VHF, UHF, HF, e ci sono, tu compri un ICR 7000, compri, non lo so, la tua disponibilità, un ICR 7000 lo trovi a 500-600 euro, una cosa del genere, della ICOM, ed è un ricevitore che ti dà le ultime soddisfazioni. Oppure ci sono dei ricevitori tipo, non so, la OR 3000 come quello che c'è già un paro sinistro, la OR 100, l'F dice trasmettitore tu non lo puoi usare, non lo puoi avere neanche mettendo il tappo, perché sei fuori legge, è un ricetrasmettitore. Sono Valle Radio Montariali, buonasera. Ciao Sandro, buonasera e ben sentito. Ma volevo dire, Clara, se ti capita l'occasione, mi capita, cioè, sì, è proprio l'occasione di conoscere qualcuno che ce l'ha proprio il ricevitore, nel senso della parola HF, se lo puoi far sapere, mi diciamo di fare una cortesia, e ti ringrazio già da adesso. Quello non ci sono dubbi. Poi, per quanto riguarda l'altro discorso, non ne parliamo neanche qua. Può capitare anche l'occasione di quella che tu hai detto prima, quello è un altro discorso. Lo prendi e stai zitto, punto. Come fanno tutti e come abbiamo fatto tutti. Però a norma di legge non si può avere per un essere doppiello che ci trasmette il torre. Poi da tutte le parti ci sono, tutti li usano, tutti ce li abbiamo, dico tutti, e ognuno fa quello che gli piace, quindi quello è un altro discorso. Però a norma di legge, come tu chiedevi, delle normative a Marco, le normative sono che un essere doppiello deve avere ricevitori a banda stretta, non a sintonia continua, e tra l'altro ricevitori, quindi sia VHF, un HF e un HF, sempre così. Buonasera città di Lugar Radio, questa radio comunque che stai sentendo adesso con l'MC80, non l'MC60, l'MC80, è la radio di Gianni Doppio Root. Sente, diciamo, la modulazione. Comunque stiamo ascoltando anche con Galaxy, sinceramente è bella, è anche quella, non è prepotente come questa, però è bella ugualmente. Avanti, posso durra. Buonasera signori, ben ascoltarti. Niente, dai, stavo seguendo un attimino le vostre pure informazioni. Ciao Sandro, presidente anche a te. Vabbè, giustamente Marco gli ha detto se tu quello che chiude l'occhio puoi usare anche quello col tappo, ma non è che sia a termine di legge, non è che sia giusto, però pilato unico per ricercare ce ne sono tanti, quindi e tutto sta al modo di pensare, di rischiare della persona. Io a me non piace molto rischiare, dico la verità. Sì, anch'io per quello ho chiesto se era possibile che se qualcuno aveva qualche buona informazione di avere proprio l'apparato giusto a termini di legge, neanche a me la verità piace rischiare, ripeto, mi piace, quando vado a nanna non devo niente a nessuno e dormire tranquillo. È giusto, KK. Ma accontentati Antone. Sì, io contento di così, non ce n'è. Anzi, poi, la verità, guarda, quando ti prende la pressione delle radio è allucinante, ce n'è una più bella dell'altra, dunque ti prende e impari tantissime cose, è veramente un bel lupo la verità. Ti ho fatto conoscere un nuovo mondo. Sì, beh, ma la colpa anche di Claudio. Sì. Ma tu dai no. Io, credetemi, ho fatto dall'83, no, sono venuto qua dall'85 al 92, perché nel 93 ho preso la parte della rematura, ho fatto il pirata. Io lo dico a voce molto aperta perché ho fatto il pirata con due P, troverò di tutto e di più, UHF, UHF, HF, lineari da tipo TL922, avevo tutto. Mi ricordo come oggi, un venerdì mattina, sono arrivato dal lavoro, lavoravo a Porto Torres, sono arrivato dal lavoro perché c'era uno sciopero eccetera, quindi anziché uscire alle 4:30 siamo usciti tutti a mezzogiorno e mezza, tutti i miei colleghi sono andati a mezza e poi sono saliti a casa. Come sono entrato nel cancello, erano nel portone che mi stavano aspettando, capito? Mi stavano aspettando. Mi guardo la camionetta e ci sono piantati nel portone. Capito? La mia fortuna è stata che loro non mi conoscevano, però come sono entrato io, è entrato il postino, che loro conoscono molto bene. E poi voi qua, stanno aspettando un certo signore che era là, qui, questo signore che era là, se ci avrebbe fatto i catti suoi, forse sarei stato ancora pirata. Hai capito, Antonio, cosa ti ho detto? Già ho capito, giustamente diciamo, queste cose si fanno quando uno è più ragazzotto, diciamo alla fine non è paura mai di niente, ti senti proprio in piena forza, proprio la voglia di rischiare, sì, già ho capito cosa vuoi dire, veramente d'accordo. Dunque alla fine, guarda la favola, uno fa e muddu. Bravo, bravo, perché sembra che nessuno stia ascoltando, ma tutti hanno quattro orecchie. E a me sinceramente parlando, in quell'anno mi è andata bene, ma sai quanto mi è andata bene, che tu non hai idea. Perché quando sono saliti a casa, manco della roba che c'è adesso, ce n'è la metà, pure non avevo patente, ce n'è la metà, capito? Avevo di tutto di più, ma di tutto e di più, fotografie fatte e appese al muro come ricordo, sono le viste, avevo di tutto e di più. E mi è andata bene perché comunque mi è andata bene, perché stavano scrivendo un verbale che io penso oggi a rate stavo ancora pagando, perché in quell'anno era un verbale da 6 milioni, da 6 milioni di lire in quell'anno. E quindi mi sono attaccato, più là, ma guardi, ma qui, ma là, io lì, non so come sono riuscito a farle capire che e ho fatto però una promessa che ho mantenuto, ma l'ho mantenuto veramente. Metto queste parole una persona che conosciamo un po' tutti, che adesso non c'è più in pensione, mi ha detto noi che non lo chiudiamo perché il verbale lo facciamo, però non lo mandiamo avanti. Se lei ci promette, visto che la passione sua credo che sia esagerata, perché non abbiamo mai visto tanto di quella roba ad una persona che non è in possesso di patente di licenza. Ma però lei mi deve promettere una cosa. Ha detto, era, mi ricordo, nel mese di maggio, una lì in cui si cadla, che io mi ricorderò per quanto campo, mi ha detto a ottobre ci sono gli esami da rallentatore. Lei va e li dà. Deve andare a dare ragione a Valentore, perché noi torniamo, e se lei non ha preso la patente da Valentore, questo verbale, siccome noi abbiamo 6 mesi di tempo per poterlo mandare avanti, questo verbale lo mandiamo avanti e facciamo passare brutti quarti d'ora. Queste sono le parole, me le ricordo, mio giovane, c'è mia moglie, mia figlia, la piccolina. Certo, guarda, io le prometto che mi metto a studiare veramente con sacrificio, con voglia, con tutto, e do l'esame alla rematore. Sono stato 3 mesi senza accendere la radio, 3 mesi studiando giorno e notte. Sono andato a Cagliari a ottobre, mi ho preso la patente. A vedere se me l'ho presa. Quindi, se uno vuole ottiene, però non con le minacce. A me mi hanno costretto, mi hanno minacciato. E ti dico con tutta franchezza, 52 anni che mi si è stretto molto il buco del culo. È una bella storia, è veramente una bella storia. Come? 6 milioni di multa, gli iscritti, è fatto firmare, con verbale alla mano, E ti dico un'altra cosa, che non arriva già alla mano, quando sono venuti qua, la seconda volta che ho presentato la patente e la licenza, sai che cosa mi ha detto il signor Pigas? Mi ha detto, ma ci voleva molto il signor Marti. Mica se ci voleva molto. Ho voluto il nostro intervento per farle capire che si può andare a finire in galera facendo queste cose. Queste sono le parole. Me le ricordo come oggi, capite? E tra l'altro attento che quando mi ho preso la patente io nel 1993, allora ecco, questo è il primo, poi ho preso la VLT il 17 ottobre, no, sì, 17 ottobre 1993, mi è arrivata la licenza, il diploma perché la centinaia poi ti manda il diploma, la testa eccetera, che dal 30-12-1993, capito? Quindi con la licenza provvisoria io non potevo parlare, non potevo fare niente, Marco non so se ha l'ascolto, entravo come secondo operatore anche davanti ai radioamatori già IS0, perché con la patente provvisoria tu devi avere, per poter entrare a parlare in un QSO, in HF, in VHF o in UHF, un radioamatore che apre, quindi entra con la sua sigla e tu continui a parlare come secondo operatore, capito? Quindi ne ho fatto di cose, e quando mi hanno chiesto a parere di licenza, dopo al terzo controllo, per vedere se tutto era in regola, perché mi hanno tartassato che io avevo tutti gli HF, mi hanno detto c'è un'altra cosa che deve sapere, questa è la licenza speciale, allora c'erano due licenze, la speciale e l'ordinaria, lì con questa licenza speciale può usare solo le UHF e le VHF, che le tenga, non c'è nessun problema. Se noi monitorando la sentiamo in HF, lei non prende neanche la licenza definitiva. Ma lo ricordo come oggi, mi hanno ucciso. Quindi altra preparazione per andare a prendere la patente superiore che era quella ordinaria, quindi la IS0, capito? Quindi ho fatto un calvario, però ci sono riuscito, Antonè, mi ho messo in testa di farcela e l'ho fatto. Ah, veramente d'accordo, già sono belle esperienze lo stesso che insegnano. Ah, comunque là, alla fine ti hanno sicuramente dato l'impulso pure per arrivare giustamente a quello che sei. Sì, una bella storia, questa la verità non mi sa che non l'avete mai detta, vero? Il primo giorno che mi sono messo a operare mi hanno dato 5 giorni di punizione. Sono cose da nascondere, perché io ho un carattere molto, molto tosto, se decido di fare una cosa e voglio averla quella cosa, la devo fare e ci devo riuscire a fare, non c'è niente da fare, è come lavoro, non capito? Se io dico, ma perché gli altri ci riescono a mettere due mattoni a fare un muro e io non ci devo riuscire? Non sono un muratore, però mi metto e provo, capito? La prima volta Raggio Bucci a fila di gaggio, no? Non so se c'è Falchetto, che lui è il mestiere, a fila di formaggio, capito? Tanto che è legale, no? Mattone con mattone, a fila di gaggio. Ho tirato su questo muretto a casa di mia madre. Mamma, hai visto? Ci sono riuscito. Come mi giro con un muro e farò un muretto? Perché non è il mestiere, però il muretto l'ho fatto. La verità è tutto divertente oggi, aspetta un attimo, c'è il primo perché è da parte. Tu cosa ne pensi già? Mi sei dormito. Io vedo Gianni! Gianni è caputo. E ok, dai. Va bene, belle storie, bello raccontarle. Infatti, come vi ho accennato poc'anzi, a me dopo il primo giorno di operatività mi hanno dato 5 giorni di punizione. Da. Non sono addormentato, non trovavo il microfono. E invece l'avevi. Avevo, siccome come apro lo sportello dietro c'è il portamicrofono attaccato, lo appendo sempre lì, no? E a volte però lo appoggio anche in terra, piano piano lo appoggio e non riuscivo a beccarlo, sono andato a prendere il portamicrofono, non c'era per due volte, ho cercato, poi io mi sono venuto in terra. Sapevi là che voce dormito, dai. E non ti dico che sono tanto ardito, la verità, però, perché la sera non stavo andando a lavorare, ma cazzo, mia moglie mi tratta, mi porta a fare la spesa, mi porta qua, mi porta là, sempre girando, sempre. Io avevo già fatto piacere, ma almeno questi studi, no, a me mi interessano, la verità, ti tirano su, sono delle belle esperienze, là, sono dei bei racconti. paga. E come mai, Sandro, ti ha dato dopo 5 giorni di vita CB? No, non è questione di 5 giorni di punizione di CB, è ben altro. Forse Claudio mi ha già capito il ruolo. Gli ho capito. Vabbè, erano anche altri trivi. Ho capito. Sono esperienze che purtroppo uno deve provare, perché, ripeto, tutti ci stanno provando. Qualcuno giustamente o ingiustamente magari non è passato, perché a quanto si dice io non è che posso andare contro il Ministero delle Telecomunicazioni, perché non posso andare, però si dice che i compiti erano un pochino sfasati qui e là, vabbè. Però io sono stato 3 mesi senza accendere il radio, attaccato ai libri, andavo a Porto Torres dal povero Gabriele Mischi, ci faceva lezione il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Ma le prime erano toste, perché Gabriele era un grande rianimatore. Allora la sua componentistica era quella di valvole, capito? E quindi entrate in testa tutte quelle cose, studiare normative a memoria, che sono tante, e il codice Q era una cosa da ragazzini, ma le normative, che sono tante nelle telecomunicazioni, sembrano poche ma sono tante. È una cosa difficile per me, difficile perché era un mondo completamente diverso. Oggi non me ne frega più niente, se tu mi metti, io c'ho il tatto qua, se tu mi metti a fare telegrafia ti so fare quelle due stronzate e poi non me ne fotti nulla. Ma credimi, io ti faccio vedere i nastri che mi aveva regalato la buon'anima di Tore Lai, no? Con il registratore e il tasto collegato al registratore che mi aveva prestato, non gli ho mai tornato Andrea, io stavo giorno e notte, io andavo a lavorare, allora con i nastri, con le radio a nastro, a cassette, anziché mettere la radio per cantare, tu mettevi il nastro, capito? E stavi come lui batteva, A, B, C, una volta mi sono fermato la casa semaforo a vedere lui sì, ho detto una bella vita, ma che ma qui che si è orrido. Io stavo tutto il giorno così, anche a lavoro, capito? Con cosa attaccato lì nelle, come si chiamano quegli affari, le cuffiette, e sempre parlando da solo. Perché la telegrafia è una musica, capito? E quindi ho imparato così, piano piano. Quando mi ha fatto un culo a tana di grillo, perché me l'ho fatto, sono andato all'esame per la telegrafia, avevo già consegnato i fogli per entrare, perché chiamavano a gruppi, allora adesso secondo quanti sono chiamano tutti assieme, e a me non mi avevano chiamato, e gli ho detto, ma vedete la cosa, c'era un commesso lì, ha detto scusi, ma il presidente di commissione non c'è, dice sì, me lo chiamo per favore, e me lo abbiamo chiamato. È uscito il presidente di commissione, che era allora ingegner Tocco, non ingegner De Biglio, ingegner Tocco, basso veramente una bizzona, amico di Gianni Gomesciolo, che l'ha bocciato 10 volte, al 10° anno l'ha detto, adesso lì è preparato, e gli era data senza fare esami, capite? Mi ha chiamato e mi ha detto, lei è il signor, sì, mi ha detto, lei non deve entrare, lei è esonerato dalla telegrafia, ho detto, come esonerato? Sì, perché non lavora, il militare dice che lei ha fatto, il militare radiotelegrafista a bordo del Vittorio Veneto per 12 mesi. Ho detto sì, e allora lei telegrafia non è operata, può andare a casa, le mandiamo tutta a casa. Canta la prima mi ha fatto un culo di 3 mesi che vende telegrafia. Punizione di CB. Allora, quando adesso vi racconto la mia storiella, quando ero sotto diciamo sotto militare, il servizio del militare, ho uscito l'occasione di fare diciamo il corso diciamo di operatore radio, e lì l'ho preso, diciamo, ho approfittato e ho accettato diciamo per frequentare il corso. Ho frequentato il corso di 3 mesi di telegrafia, diciamo contatto, giro doppio, è durato 3 mesi, facevamo 4 ore al mattino e 4 ore la sera, per tre mesi, prove contro prove, solito lì, pro qua, là. Finito grado, abbiamo fatto l'esame, messo l'elenco chi era passato e chi non era passato, ed ero passato. Dopo 3 giorni mi avevano dato la destinazione, allora mi trovo a Genova e sono arrivato lì, presentato tutto quanto la mia destinazione, sala operativa di trasmissione radio, diciamo. E Claudio, vabbè, una sala operazione radio completamente diversa, diciamo, e così via, affiancato diciamo da un superiore, e cominciato a trasmettere con i vari componenti, diciamo. Adesso non stiamo lì a illustrare chi fossero o chi non fossero. E c'era questo componente che non mi riceveva bene perché era in un punto, diciamo, in un punto un po' particolare, quindi faceva fatica a ricevermi. E allora io le continuavo a dire di cercare di spostarsi per trovare un punto per poter trasmettere. E questa storia è durata diciamo circa per 10 minuti. All'ultimo diciamo che mi sono un attimino innervosito, diciamo così via, ho detto ascolta, fai una cosa, se hai capito è buono, e se no ti arrangi. E lì il superiore mi ha chiamato da parte e mi ha detto, dice tu da questo momento c'hai 5 giorni di punizione. Quello non glielo potevi dire, dai. Adesso dice chiamavi a filo. Capito? Ecco le 5 giorni di punizione, perché mi sono uscito bruscamente, logicamente. È stato l'istinto che ti ha fatto parlare così. E si è partito al raggio. Adesso chiamalo via telefono e via. Sì, vabbè. Comunque dopo non li avevo fatti neanche 5 giorni. Perché dopo logicamente sono andato al superiore e ho detto mi scusi, questo e quello e quell'altro, E allora dopo il secondo giorno mi ha fatto rientrare, diciamo. Mi ha fatto rientrare, mi è stato 2 giorni a fianco, ho detto quanto e via, eccetto. Ma poi ne ho fatto circa un anno, ma non era per me. Capito? Non era per me perché era stare, si facevano 4 ore. 4 ore di sala radio il mattino e di solito ne facevi 3 o altre 4 il pomeriggio, quindi avevi tutta la giornata impegnata. Quello sì. Vabbè, ma si è pagato di più degli altri, vero? Ci sono degli incentivi perché i servizi logicamente sono diurni e notturni. Pantale, ti piace a te fare l'operatore del radio? Sono delle belle storie, guarda, che veramente già ti appassionano, ti danno ancora più voglia di scoprire la radio, perché sembra così, sempre una stupidaggine, c'è sempre qualcosa di nuovo, e se non senti l'esperienza degli altri, guarda, manco te l'immagini. Ma tutto male ciò che finisce bene. Va bene, dai. Comunque Antonio, è sempre meglio dormire col cuscino, con la testa sul cuscino, bello riposato e tranquillamente, capito? Perché diciamo al giorno d'oggi, logicamente, chi è che non ha un ricevitore diciamo da poter esplorare, chiamiamolo così, esplorare diciamo le frequenze, un po' tutti diciamo, però diciamo ognuno diciamo ne fa uso di come meglio crede della propria sua vita, e delle sue proprie azioni, capito? Vabbè, uno si deve assumere la sua responsabilità per le cose. Se sbaglia paga, si acciappali, e quella è la ragione. E vabbè, comunque è sempre bello ascoltare radioamatori e cose, l'ho ascoltato anche io per tanto tempo e li continuerò ad ascoltare. Scusate già, faccio un attimo di banco, è venuto mio fratello, arrivo subito. Ehi Antonio. Hai sentito stasera, ma stavo parlando con Antonio. Sì, stavo ascoltando. Com'è quella modulazione, buona? K. Quello del CM20 con 271 della ICOM, che praticamente è un base simile a un ricevitore della ICOM. Si assomiglia molto all'ICR7000. E Alessandro, Bubu, adesso quando non si sente dice chiama via filo. Sì, ma ormai non esiste più. Non esiste più, esiste ma molto ridotto, capito? Molto, molto ridotto. Perché adesso ci sono altre vie di comunicazione, capito? Io davvero sento, è così, però infatti no, io proprio ero imbarcato qui quando sono arrivato alla Maddalena, gli ultimi, perché mi ha fatto 18 mesi, e quindi 12 li ho fatti fuori, e 6 mesi li ho fatti quando sono arrivato alla Maddalena, praticamente ero lì nell'ufficio telegrafo, ma era una cosa ben diversa, capito? Era una cosa ben diversa. E comunque, se uno ci crede alla propria passione, ci arriva, perché ci arriva. Però io continuo a ribadire quello che ho già detto a tutti, non basta un impegno così superficiale, da un'occhiata, al ripasso, che là, no, non è così. Non è così che si vince la battaglia. La battaglia si vince studiando, come quando tu ti prepari per dare un esame di Stato, un esame di laurea, la stessa cosa. E devi preparare, studiare, tutto studiarci e buh, senza sentire la radio. Quindi la preparazione la sta facendo bene, ma molto bene Roberto sente la radio, come ha detto qua, io quando esco dal lavoro, se mi metto la radio non combino niente, la preferisco studiare, perché la patente me la devo prendere, capito? E sono sicuro che ce la fa, perché ci sta mettendo un impegno che io non vedo gli altri con questo impegno, non lo vedo proprio. Vabbè. C'è quella che apprende di più, magari ha bisogno meno di studiare. Ma non è questione di apprendere, no. Gianni, il mondo dell'elettronica è un mondo molto vasto, è così. Non è solo sapere normative, ti ripeto, prepararsi in quelle poche cose che ci possono essere. Ci sono mille. Allora, immagina che ci sono 32.000 domande, va bene, 32.000 domande. Da queste 32.000 domande loro preparano i quiz su schede da 23, mi pare, 24, se non mi ricordo. 26, non mi ricordo. Capito? Quindi da 32.000 domande loro prendono e tirano fuori un blocco da queste qui e preparano queste schede, un altro blocco da queste qui e preparano queste schede per il giorno d'esame. Quindi è tutta gente preparatissima, sono tutti ingegneri elettronici che ne sanno un bel, e quindi ti mettono in grossa difficoltà, perché quando tu vai, ti chiedono i documenti, tutto, domande eccetera, mica loro sono scemi, sanno chi sta arrivando, capito? Perché loro hanno un sistema anagrafico chiamato CED, dove loro che fare. E quindi preparano in base ai candidati che ci sono le domande dove ti possono mettere in difficoltà. Quindi sono anche figli di buona Roma, capito? E perciò tu devi essere più figlio di buona Roma di loro, devi andarci con una preparazione superiore a quella di loro. Così è sano. Eia, dai, nel frattempo mi stavo concludendo qualcosa qua. E lo so, certo non è. Non sarà così facile logicamente, ci vorrà un bel po' di impegno, capito? Un bel po' di impegno, magari se sei fortunato magari ti trovi le domande diciamo al volo e magari ti trovi quelle domande dove ti fanno un attimino sudare e pensarci più di una volta per essere per sicuro a rispondere a quella domanda. E lo so, lei lo può. Bisogna essere sicuri con domanda e risposta, perché se la domanda e risposta è come un quiz con la patente della macchina, siamo a quelli belli. Quindi essere sicuro che stai rispondendo alla domanda alla risposta giusta. Se non la sai devi andare avanti, devi saltarla, non devi pasticciare, non devi fare. Mentre prima l'avevo dato io, c'erano tre buste chiuse, presidente di commissione diceva chi è che vuole scegliere buste, un candidato stesso sollevava la mano e sceglieva la 1, la 2, la 3, la 1, ok, apriamo la busta numero 1 e questa spinta di compito da fare, quindi come, uguale, preciso, identico ad un esame di diploma, la stessa cosa. Alla lavagna scrivevano il testo di quello che dovevi fare, avevi 4 ore di tempo per fare il compito scritto, compito vero e proprio scritto in brutta, ricopiarlo in bella, senza cancellature, e lasciare la brutta in quella nella bella, firmata una coppia e firmata l'altra coppia, ok, e firmata la busta, quindi non scappavi da lì. Dopodiché ritiravano tutte le buste, l'esito trovavano dopo 3 giorni, adesso trovavano subito, promosso o bocciato, no, arrivava dopo 3 giorni, perché dovevano correggere i compiti, capito? Come proprio un vero test d'esame a scuola, la stessa cosa. Dopo 3 giorni, tu chiamavi, ci sono Tizio, Caio e Sempronio, matricola, ti diceva, perché ti danno il numero di matricola, top. Perché non puoi chiamare, non potrai chiamare nessuno, solo tu interessato. Quindi con quel numero dicevo, sì, lei è idoneo, ok, arrivederci, grazie, arrivederci, mi mandi tutto a casa, uscire, abbinami. Adesso è tutto cambiato. E adesso è tutto un altro paio di maniche qua. Adesso c'è tutto un altro metodo. E vabbè. No, ma io mi ricordo che quando ho cominciato il corso lì, il primo mese è stata dura, ma dura veramente perché non si riusciva a fartela entrare in testa. Ma perché? Perché ti faceva i battiti, ti faceva per dire una parola, con i battiti te li faceva, non so, un battito ogni a secondo, poi aumentava fino a farti entrare in testa nella velocità la parola, diciamo, che lui ti trasmetteva, cioè senz'altro se l'hai fatto lo sai, diciamo, noi eravamo in 12, mi sembra, 12 o 15 tavolini. In ogni tavolino c'era il giro doppio, il tasto e poi le cuffie. E poi avevamo, diciamo, il classico libro, da registrarci e da registrare e così via. E è finita la lezione e ogni questo, diciamo, questo libro c'era il nome e cognome di chi era in possesso. E noi tutto quello che ricevevamo, diciamo che l'operatore maggiore ci inviava e così via, noi dovevamo scrivere su questo libro, a fine lezione lo consegnavamo. Poi quando rientravamo vedevamo il risultato però questo ogni tanto ti aumentano i battiti, capito? L'altro mese è stata veramente dura. Beh, normale. Normale, normale. Io voi da noi c'era un tenente di vascello radiotelegrafista della Marina Militare, un ufficiale della Marina che era una cosa allucinante. Era allucinante proprio quando mentre recupero mi trasmette questo fonogramma, dice, aspetti che non riesco a scrivere, si muova, scriva, cazzo punto linea, linea, punto, punto, linea, punto, linea, cazzo, non riesci a bucare i piedi. È tosta, è sempre così, ma era tosta, poi pian piano hai cominciato a memorizzare, diciamo che io sono anche stato un po' fortunato perché la sera io me ne andavo in sala radio che c'era un paesano, cioè uno dei vecchi operatori diciamo di sala radio, lì dalle parti di Ozieri era, non so se ancora si trova perché stava per andare in pensione, e ne approfittavo qualche ora per approfondire e stare vicino a lui che per farmi capire e farmi entrare in testa. Vabbè, altri tempi eravamo più giovani, allora avevamo troppo battato in capo, troppi problemi. Avanti Bombolo, buonasera. Ecco a me Claudio e anche a Sandro a Porto Torre, si è sentito anche a lui, poi non so chi altro ci sia. Comunque buonasera a tutti in generale. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Sono io, Sandro, Antonello Diosi, che in Quebec sta facendo cosa, Gianni Occhiolo, ma avanti Gianni. Ok. Vabbè, qua. Non stavo ascoltando, ricordate parlando. Stavamo dei vecchi esami che si facevano prima con la radiotelegrafia. Ma lo sai che ho 5 di quei pomelli, 5, cazzo non va bene neanche uno a due, tutti finiscono, la matta, neri in varia che... Ma già si trova, devo guardare a ver se ce ne ho qualcuno io, però perché a Luigi forse ce li ha quelli. Provo a chiederlo, lo sa, non è che c'è il pomello no, della staffa della LAN 48, perché me l'ha dato a Pierpaolo, il padre di Antonio Bombolo, però manca il pomellino per stringere la staffettina, non ce l'hai tu no, quello della LAN 48, non l'hai trovata quella staffa no? Ehi, già ce l'ho, te la do vergine, ancora dentro la scatola, staffa, bustina con vitti e la staffetta per appendere al mic, ma va bene? Cazzo, carissimo, io cosa ti do? Un quizzi già fatto, va bene? Un quizzi, così te lo vedi. Va bene. Sia un amico, va bene, ma allora fa tanto, già ce la siamo il pomeriggio, non c'è problema. Quando ci vediamo non sanno come lo facevare. Quando si a Sassari passa e qui ci facciamo l'occhietto. Lui ha detto una cosa, esci tutta la sera attaccata con il miara, con la radio, mamma mia, non ti giù il tracco, qua c'è un babbo bombuglione che... Cisci, ho staccato quella resistenza, sa, completamente scoppiata proprio. Vabbè, speriamo di trovarla domani. Quindi speriamo di trovarla domani, quindi la sostituisco. Ho messo una lampadina, già tutto pronto, e così lo mettiamo in funzione. Radio di Tino in riparazione, abbiamo trovato i pezzi, tutto a posto. Ehi, va bene, dai. Già va bene così, dai. Ok, e io adesso sono già un po' che non metto, non accendo Giorgino, non vorrei che si rovinasse. Adesso vediamo poi questi giorni. io almeno scendo lo farò riscaldare, anche se non è in trasmissione, ma almeno farò riscaldare, se no ho paura che quello lì succeda qualcosa. Vabbè, dai, vi saluto, che devo ultimare alcune cose, dai. Ciao qua, ci sentiamo, ciao popolo. Ah, ciao Sandro, dai, ci risentiamo. Guardi Claudio. Ciao Sandro, buonanotte. Sì, ma non ti preoccupare, anche questo era tanti anni fermo, quello di Pietro, ma non succede niente. Se non lo devi usare, non lo mettere in un posto umido, tienilo in un posto asciutto e possibilmente togli le valvole e le avvolgi con la carta di giornale, le conservi. Dove lasciare attaccate, capito? Perché io queste non so se sono funzionanti, perché erano attaccate, erano anche incollate, quindi ho pulito tutto. Adesso vediamo quando metto in funzione l'amplificatore se le valvole sono efficienti o meno, ma credo proprio di no, credo proprio di no. Comunque ci provo, nel caso dovrò anche comprare le valvole, però a quel punto lì lo metto da parte, perché adesso sono lì da buttare, non ne ho. Però l'importante è che l'abbia terminato, che so che ci vogliono solo le valvole, va bene così. Non interessa far funzionare il relay, far funzionare tutto. Dunque, se non lo devi usare, sa, o lo accendi ogni tanto, oppure stacchi le valvole e lo conservi in un posto asciutto. Solo quello puoi fare. Va bene. Ciao, buonanotte e alle prossime. Quando vuoi, passa che io sono qua. Ma Gianni doppio rutto, non c'è più, Gianni doppio rutto. Ci sono, dove ci sono, ehi va, il sonno incombe, per cui mi sa che vi saluto tutti e me ne vado sotto le coperte. KK, Antonello, avanti. Il giorno c'è che è venuto il fratello, e non ti dico mi dovete ingassare oggi. Mi sembra che te l'avevi chiuso qua dentro, già ne ho fatto, A proposito, se mi dai un secondo ti faccio sentire l'altro microfono che ho fatto le connessioni già, così mi dici secondo te se è meglio il Turner più 2, già il Turner più 3 o la Donis, capito? Lo faccio sentire, aspetta. Prima di addormentarti. Allora, questo già è l'Adonis, com'è? Gianni? Eia, va benissimo. Meglio dell'altro o peggio? Se qui c'ha più acuti. Acuti, ciao. Vabbè. Ok, e a te, togli un numero, come va questo? Popoletta, va bene, va. Ottimo per la truppa. Allora, lasciamo stare così. Dici che aumentiamo la potenza. Lasciamo stare così, allora, già va bene. Poi se la potenza va meglio. Vero? E allora lasciamo così la birra, 25 watt. Papà. Stavo dicendo, non te l'aspettavi così qua il deposito? No, bello, quella casetta lì, se uno stava lì tutto il giorno l'avrei utilizzata alla grande, e altre 10 via più buona l'avrei davanti, ma chi vi è? Caffa, lo so, ma non ci rimaniamo noi, però, cioè noi ci rimaniamo, ma non... Senza se sarei dovuto stare tutti i giorni lì dentro qualcosa, allora sì, me l'avrei messo sul serio. Io dico che in chi mi già esce tu forte? Minchia, hanno sentito quanto si esce bene da quel buco lì, no? Da quella piana lì, la piana via Venezia. Vittorio guarda lì in macchina, mi sai i collegamenti che fa, è micidiale quel pezzo, eh? Io già lo so già, che poi prende tutta la parte della 131 anche. E già lo grido, stai chiudendo già allora? Ovvio ascolto ancora un po' il particolare, vi saluto comunque, sono mezzo appacchiato. Ehi, Agiovai, va bene, quando vuoi, se ti svegli che hai un po' di pausa, già siamo qua. Cosa sono? Buonanotte a tutti, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao, ciao, ciao, buonanotte. Capito, Ian, tu? Grazie a stessa cosa. Che gaffa. Comunque tutta quella zona presa, io non so che dice ma forte. È forte sì quella zona. È forte, è forte, è forte, non c'è problema. È una bella scenatura. Mamma. Perché cosa, se no io stavo pensando di mettermi da rinco quando mi serve attaccavo il capo, ma poi lo piegavo e via. Vabbè, anche così si può fare, guarda, non c'è problema. Avevi bisogno della macchina, attacchi un capo, se stai lì è moduli, quando è se lo ritiri e basta e tutto finisce lì, però non è d'accordo. Bisogna vedere cosa pensa lui. Ma io l'avrei fatto anche lì da te, ma tu c'era l'antenna, ho capito che fatti di là. Ma è venerlo con chi mi fa pure il 5-6 puro. Ma tutto quel deposito delle armate di chi è, del tuo principale? No, ma lui è anche lì nell'ambulanza. Si fa mettere l'ambulanza, dai. Era un presidente di questa associazione. Ma presidente? Cos'è? Croce Blu? Non fa. Ho capito. Agio compreso. Me già l'ho visto qualche volta in divisa. Con poche volte l'ho visto, ma è tu. Poche volte. L'ho visto una volta al Marginetto in divisa, non so se stava rientrando, non so se stava andando, E lì già ci vanno, ci va anche in borghese, ci va a petto, ci va. Sì, già lo conosco, ma l'ho visto, era proprio in divisa, era presto, stavo andando a lavoro, io mi sono fermato a prendere le mie sigarette, stavo uscendo con l'ottore, però l'ho visto. Ma è gran sotto, ma deve essere che tu l'hai visto tutto l'altro giorno, che dopo tanto ho fatto il servizio. Non so, è da tanto che l'ho visto, da tanto, capito, non è da poco, è da tanto l'ho visto. Vedi? Ero produttore secondo la turità, quindi l'anno scorso, forse d'estate. Perché la casa sta facendo di meno, l'altro giorno l'ha fatto il servizio, sta facendo di meno perché ha altri impegni, cioè, e ne prende di manco, e ogni tanto già lo fa, giustamente. Mi ha dato ritocca pure a Edo. Ma è normale, se lo vuole fare, perché non farlo? Ma ogni tanto, quindi ritocca, tu è appassionato di cose, di tirare piattello. Oh. Ma è sempre un po' di tirare piattello. Per non fuggire. Ah, capito, è un bel lubi anche quello, è un po' costoso, ma già è un bel lubi. Ascolta, l'autolavaggio sempre ce l'ha. No, non ce l'ha più. Ma padre è morto, Ma padre è morto. Lui l'ha dato via l'auto la faccia. Io portavo la macchina lì a lavorare prima. La mia, quello di mia suocera, tutti li portavamo. Che ero? Ehi, mamma Lungio. E via anche ero 50. Allora, sempre lì. I miei soci ci avevano un negozio in via Spruni, capito? E quindi lui si serviva da noi e noi ci servivamo da lui. Si è lavorato quell'uomo, Lo so, infatti il tuo principale lo conosco, come si chiama Daniele, no, come si chiama? Daniele adesso, prima si chiama Vittorio. Uno, Daniele si chiama. Daniele che ci va via l'avaggio ed è quello il nostro principale adesso. Prima era Vittorio il padre. Vittorio sì, non lo so. Però io da Daniele lo conosco da bambino, da piccolino. Capito? Per quello te lo sto dicendo. Ma già c'era da fare. Più di tutti il babbo che ha lavorato forte, anche la moglie, dentro quel lavaggio. E ha creato tutto quello che ha creato, ma. Travagliava davvero allora, ma anche sulle bombole la curava forte. Già lo so. Lavorava molto. Vabbè, già lavorate anche voi, non c'è problema. Ci sono tanti anni che lavoravamo forte, ma forte però. Lo sai che ho visto stamattina? E Maria non mi faria, la Bibbia si è avvicinato a Enzo. A Franco questo. E dove? Con Galipone. Era lì, era nel piazzale fuori, dove si è fermato tu. Nel piazzale? Si è fermato tu. Ma quando me ne sono andato io? Oh, molto dopo, verso le... Era stata le 10:30, 10. E non bisogna vendere, pagare l'assicurazione. Non so cosa sta facendo. Si dirà da avvocato, mi pare, non so cosa. Non so cosa che te la prende. Stava che non entri, perché c'ho un po' di impegni, adesso non va, non so cosa. Impegni della macchina va in campo, va. A me mi paria o non mi paria? Ma poi già era eso. Ma è mai tornato fuori qui e là, non lo so, non l'ho più visto, io non ho più sentito. Fece per lui che non entra, non so cosa dire. Io problemi non ne ho, impegni non ne ho, e quindi quando ho 5 minuti sono sempre qua. Peggio per lui, è una sua scelta, una sua cosa, è pieno di casini, di cose, quindi ognuno si risolve le cose sue, a me non me la fotte più un cazzo di nessuno. Vabbè, vuol dire che lo sa lui il problema, è che... E lo sa lui, già lo so anche io, quindi ne ho già parlato con lui di queste cose, perciò ci dovrò pensare da prima. Si risolverà fra la sigla. Chi è? Sono Giammaro. Come è uscito questo guadagnino? Come esce? Come esce questo guadagnino? È tutto impastato, ma lo sei coricato. Non so, è questo povero campo questo. Ma già un pacchetto povero ferro a modulazione, ma non hai altro. Ma mettilo buono, passi dalla Ferrari alla 500, Vabbè, questo è quanto qua, ho l'ora 48, sono adesso 3 più 3. Però se ne avvicerai, ma la lavorazione che se fu per fea. Parlando, Giampaolo. Comunque buonasera, aspetta la sua. Come fa? mai sentito. Ma ero confuso con cosa. Ciao Franco, mi hai sentito? Hai ripetato il tetto? Insomma, tutto tutto ancora. Andiamo piano. Ah, è già troppo, mi sto facendo un po' più. È interessante quello, che ti sentano. Buonasera comunque. Avanti. Ciao Franco, buonasera, mi hanno ascoltato. E adesso fa un po'... ne sentiamo un altro. Tantino, la prossima settimana, fine settimana. Sentiamo anche a Tino di nuovo, beh così siamo un po' al completo, beh, un po' di più sicuramente, già ci siamo. E che Tino è tra poco, eh? Tra poco? Ciao, c'è il vento. Tino Musco, sto preparando la radio, siete male, allora. Sono con i vatti, vabbè, del baracchino, però c'ho l'altra antenna, ma mi senti meglio anche per quello. Gianni, tu mi senti, sì? Sì, a voglia. Esco anch'io con 2 watt. Con 2 watt, ma ascoltate, guarda, così c'ho 2 watt. Yes. particolare, boh. No, ok. Forza di due trame di già fa, come se sta pensando di sua bicicletta per le linee che sono via la voce da lungamio. Ma carica abbiamo sugira che butta, carica non l'ha detto. conosciuto che quando arrivo a Sassari tu saprai, no? Sì, io una volta ho detto, ma se ti metto, vattene, che se ti vedo mi dico qualcosa. Io sono passato in via Ragazzi, già mezzo all'angolo, proprio dove adesso ho fatto il... dove ci metteva la Ramona e Marinella. Adesso è... ragazzi, io mi ha dato Mattendisi. Ma lui faceva da tassista, le portava e le scendeva, mi va. Sì, era maniaccio, ma sì. Avanti. Ma c'è tante lei scendi. Che ci faceva? Ma se non vuoi vedere dove scendi qua? Con la ramata dove tu scendi? Dove un BL scende giù. Vabbè, che sa mattina via, due cerchille che la fiducia è normale. Beh, dai. No, quella ultima che si aveva fatto la Farosa, la Cosera, va via di Ranzi, Maria Masmatti, va via di Rudy, la ricordante per le due cerchillega. E io lo costo con la vita. Ma via via le cinture, le brittelle, via via. E tutto ce l'avevo anche le brittelle. Ehi, la Mini Cooper, la Mini Cooper. Ehi, ehi. Ma via, la gola di una volta attaccata. Di cuscini ricamati, ma via, da lì, dovete vedere che è rimosso. Dove la sirena è macchina, tu lo sapete. Quindi va a sacco il cuore quando noi lasciavamo le ragazze, ci trovavamo io, Natalino, tutti gli amici, no, dopo che lasciavamo le ragazze a casa ci trovavamo tutti lì a Sarrocuore e lui veniva lì quando tornava da lavorare e che incassava e una volta ne giunto con questa sirena della polizia attaccato il computer e siamo tutti fuggiti. Se non ha la moto ce l'aveva la bicicletta la sirena. No, sì, tu non va più questa sirena, che si attacca, si è incantato, ci siamo tutti fuggiti. La metto la via, io la moto. Allucinante. Io ho pensato che era d'accordo che magari aveva avuto qualche trauma. Ah, ma è sempre così da ragazzo, perlomeno no, già un po' era sempre così. E sempre con un buglione. Vabbè, dai il rovescio. Ma non lo chiamo al baracchino già, se tu si dice al baracchino, Francesco Tiemme lo guardia a beffa. Il distorsore, allora si usava il distorsore, te lo ricordi che quando è il distorsore di modulazione e c'erano i led che si accendevano, diventavano da gialli, verde e poi rosso quando andava in distorsione. Sì, ma quando invece sto fino a bianco domenica mattina, che eravamo una ventina sempre a guardare, mi c'è un po' rosso di morto, io stesso. Però tutti in macchina, Vicenza, un guida Simca, Nova Nova, Grossano Nero, che era via uguali. Bartolomeo c'aveva il Ford e Thanos, Giuseppino quel c'ha l'oro buon'anima, veniva. E non salire in bicicletta. Con la macchina e la batteria in altra oserie. C'è Paolo c'aveva la Vespa per il periodo rossa, no? Sì, lo so, sì. C'è la cosa che fa via dei vini. Poi ho attaccato l'attacco a cd sigari che ce n'era molto, l'attacco a cd sigari dell'apparato, e l'apparato ho messo sopra il marubio, tutto lì. Ma era una cosa seria la tua, attacco a cd sigari, proprio via la batteria della macchina, in un cestello di quelli del pane, tutto lì addogato la gola goglia. Sì, ma io ti moto non faccio, se andi in moto non faccio la bidà, se non è che ti fermi, eh. Ah, lui era venuto a Baracca, capito? Quindi era una cosa da una mille una notte, ci si viaggia. Tra l'altro magari che fa zia duro, vedete, vichingo, vichingo, ma se lo chiama, magari la volta torni. Tu lo vedete, diciamo, pa, vichingo, tra l'altro magari la volta torni. Chiamava la vacca, masello, masello, vichingo chiama, cazzo mi ha rotto il male, che tutta riuscita zia. fianco all'antenna piazzata. C'ha una di quelle antenne, come si chiamano, tipo bazooka. Ricordando i vecchi tempi di quando mi invitava a prendere il caffè, quando chiamava Gabi, vieni che la milizia, la bongo, arrivendo i siamo ormeggenti e tanto poco la bassa. E abitava più giù, no? Dove abita Balzarelli, abitato sempre lì, poi si è spostato dalla cessione Gavino al barbiere, lì nel palazzo di Congiatta. E poi da lì, quando è morto Domenico, lasciò abitare lì in, dove c'era Rio del Golfo, no? Dietro, piano Sossi. Ehi, Gavine, ui, quante volte mi ha chiamato a Michael, mamma mia, guarda. Si ubriacava Domenico, grazie a Gagina, vedo quasi. A te la mente già fa. Tu, ti ricordi chi eri quando ti ho visto io? Che ti trombavi la figlia di quel signore. Ah, sono ballerini, è quello. Sì, notte ce l'ha notte, però c'ha la parte la colonia. Mi pare che ne ha due o tre. Perché avevano fatto due o tre versioni, capito? Due o tre versioni. Bella storia, bella storia. Bei tempi, però poi anche lì Bartolomeo, quando è andato via dalla zona industriale in quella casa, aveva piazzato l'antenna, sì, però non parlava più, no? Era l'ordine del giorno. Poi c'è la Ghigliasso, come si chiama, che è una zona. Quello che aveva la direttiva, la zona industriale, aspetta, come si chiamava? Aveva il nome della zona. Il nome della zona, lì c'era Mario Neruda, c'era il compare Bartolomeo che lavorava a Fabiani. Per lì sì, e poi ce n'era un altro che aveva la direttiva. Aveva la direttiva, appuntava verso Sassari, sempre parlava con me e con altra gente. Mario Montella. Ah, Mario Montella. Mario Montella c'è ancora l'antenna lì. E proprio sotto Montella, dove ci abbiamo impianto noi, se guardi c'è un'antenna. Vedi ti faccio? No, la direttiva ne ha tolta, c'è una verticale, un tipo una mantola, una cosa del genere. Scappa, ma non modula mai. Ah, non so se... se c'è ancora lui lì, l'antenna c'è comunque. No, lui era fuori che lavorava, ogni tanto si faceva sentire. No, ho avuto quella a Panino, chiaramente a Panino. La storia una direttiva HF, tutto. La buttava a sentire, mettava la fragrazia mai dei carabinieri. Se sono andati, una volta domani c'era il tintino con tutta la battaglia, non era venuto, c'era il guado dentro il coso del forno, cazzo, c'è una gatta mi guarda. Già chiavi non ti rispondo io vedo sempre la macchina parcheggiata lì vicino a casa sua, lo sai loro dove abita, via Balai. L'antenna c'è? Sì, della macchina sì, è dietro. È dietro l'antenna, attaccata al posto dell'antenna della radio. No, a casa sua l'antenna c'è, perché so che ha avuto problemi, siccome i zuccali dove abita lui sono gli ex suoceri della compagnia mio cognato, capito? E un giorno glielo ho chiesto io, e mi ha detto che aveva avuto problemi con l'ex portuale, ma ti cazzo diciamo. Non lo so, io lo conosco come Gavino. Gavino Schiappa? Sì. Sembra che gli hanno fatto tutti l'antenna. Ah, boh, l'antenna ce l'aveva da quando c'era il padre. Dove? Sì, l'antenna sul tetto, non era del padre quell'antenna. In via Firi, c'è una via Firi, che via è quella, via Petronia. Ma io sto parlando di Gavino, dove abita anche lui, in via Balai. Lino, io non l'ho mai visto, non lo so se c'è l'antenna, sinceramente non l'ho mai guardato, ma la macchina ce la vedo parcheggiata lì. Che se sono comprato un 440, non è più in grado. Mi avevo detto anche che me lo portava per tirargli un pochino, perché l'abbasso di watt, e non è più entrato. E sembra che ne hanno fatto tutti l'antenna, a quanto ho capito. Non te lo so dire, non te lo so dire. Io provo a guardare, ma non l'ho mai vista, l'avrei notata. Parlava a casa sua, lui arrivava a 9, abbondante qua. Tu non l'ho più sentito. Io il punto esatto dove abita lo immagino, ma no, è dopo il Barbarbaggia lì. Dove abita Zucca? No, guarda, c'è proprio 20 metri più avanti, lì ci deve essere una mantova, capito? Se non c'è, gliela fate a togliere. Non l'ho mai vista comunque, provo a guardare. E se c'era già un po', Sandro ci diceva qualcosa. Così ho pensato io, perché non l'ho più sentito. No, via Petronia già c'è l'antenna, ma lì dove abita la sorella, mi pare che ci abita lì. O l'altro fratello, non lo so. È la casa del padre, sarebbe? Sotto abita la madre, sopra ha fatto l'appartamento uno dei figli, non so chi è. Da fraga, io ho sentito un paio di volte dalla macchina, da casa non l'ho mai sentito. Oh no, io l'ho sentito a casa e aveva comprato sto 440, che poi non era andato bene, si era rotto non so che cosa, l'aveva mandato al centro assistenza, gli hanno mandato. Gli ho fatto delle tarature anche, come fare, gli ho detto, non le ho fatte io, e poi non si è più sentito. Però credo che gli abbiamo fatto togliere l'antenna. Non lo so, bisogna chiedere. Ma se non è regola, scusa, l'antenna non la devono far togliere, c'è poco da fare. Sì, quella è una casa sua. Non so cosa è successo già, e purtroppo torniamo al discorso che avevamo oggi, capito? Quando rientri ignorante, buco, rimane ignorante, non voglio darla. E magari non voleva il padrone di casa a mettere una cosa di sopra. Tante volte quando si dà affitto non è che puoi fare ciò che vuoi. Ma infatti, non lo so. Non lo so, non so se c'era Giampaolo mi si diceva qualcosa in più, ma non so che dirti, so che non è più entrato. Ma io, adesso che mi ricordo, lo sentivo perché lui lavorava a Sassari, lo sentivo quando saliva e quando scendeva, non l'ho più sentito. Anche quello, ma detto che passava a trovarmi, che conosco all'infanzia, dove si nasce, io capito. Dove si nasce, quindi Antonio R6 ci aveva, metteva la R6 proprio, ci aveva la R6 bianca, metteva la macchina in garage, nel nostro garage di via Cavour, capito? A proposito proposito di macchine, Marco, c'è tutto il giro, non lo so come sta. No, devo trovare o telefonare al figlio per... Ma credo che già si sia ripreso, comunque non è messo bene. Quando hai queste cose stai sempre con anticoagulanti, eccetera, eccetera. Non è che è una vita, diciamo, sacrificata, sempre non devi dimenticarti di prendere quelle pastiglie, sempre che tu vai. E se non muoio, una volta era in coma quando l'hanno soccorso. Lo so, ne ho visto parecchi, purtroppo uno di quelli che ho visto, cioè l'abbiamo visto morire lì, ed è quel ragazzo che è morto nella palestra bunker via, diciamo, via Pulino, no? Lì. Purtroppo quello non è che ha visto quel ragazzo sportivo, si è morto in campo. No, non si scherza, quando quelle cose passano e dicono ciao, arrivederci, è venito, non si butta, e vabbè, pazienza. Ma che ora è? 11:20. Io ho chiesto al dottore, ha detto, dottor, ma l'abbiamo massaggiato, si riprendeva come battito, però come respirazione, no? Abbiamo provato più volte, un quarto d'ora, poi è arrivato al 118, ci ha dato il cambio d'otturi, insomma, siamo stati più di mezz'ora massaggiati. Abbiamo subito dato l'ossigeno perché abbiamo dato subito l'ambulanza nostra a prendere l'ossigeno in sede, era due passi, abbiamo preso l'ossigeno, due bombole per dare l'ossigeno e tutto quanto, non c'è stato nulla da fare. Purtroppo quando lui ha detto che poteva, gli ho detto, ma cos'è l'allenamento che l'ha portato a avere questo infarto? Dice, no, è una morte bianca, tu potresti essere anche davanti al televisore, ti viene e boh. Quello lì era stato controllato da poco perché doveva fare partite e quindi faceva controlli periodici, sia al cuore, tutte le visite faceva, capito? Non ha mai avuto nulla. Però come mai ha avuto questo infarto allora? Ah, è come una macchina, il dottore mi ha spiegato così, come una macchina nuova che praticamente, visto che è giovane, è una macchina nuova che tu prendi tranquillo cosa, e ti si ferma di colpo, magari ha un guasto e ti si ferma di colpo, e così è successo a quello lì, si è fermato il cuore è una macchina, che pompa il sangue, come tu sai, eccetera, eccetera, in tutto il corpo, quindi se si blocca quello è un organo vitale, non c'è nulla da fare. Se non lo ripristini facendo un massaggio cardiaco, riesci a fargli riavere il suo movimento, a ripristinare la pompaggio del sangue, e se si riprende bene, se non si riprende vuol dire che si muore. Perché l'interesse, mamma mia, deve essere una cosa allucinante. Beh, signori Billy, dai, io vi saluto che sono già 11:30. Statemi bene, buonanotte a tutti, ciao Luca, Gianni, Antonio, Gianpaolo si ascolta, tutti quelli che sono all'ascolto, dai, ci sentiamo domani, sennò mi canto il buco. Adios, compagno, a domani, ciao. Ciao, ciao, buonanotte, ci sentiamo. Claudio, buonanotte, ci sentiamo domani alle prossime. Ehi, ciao, buonanotte anche a